ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Quattro mattino. Sono le 8 e 18 minuti, la terza parte di 24 mattino. È martedì 8 settembre, al microfono sempre Simone Spezia. In vostra attesa è 349-238-6666 per i vostri sms, whatsapp, whatsapp audio. Fate sentire le vostre voci, dai, anche all'800-2400-24 su tutto quello che volete. Il recovery fund, il sì del Partito Democratico al referendum, la politica, il Covid, la scuola, tutto quello che volete. È lo spazio che da questa stagione abbiamo con Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, ci siamo. Buongiorno. Eccoci qua. Io vorrei partire. Giornata incandescente. Sì, discretamente, abbastanza incandescente. Caldina, quantomeno caldina. Facciamo una bella cosa. Iniziamo da una voce, quella di Nicola Zingaretti, che ieri annuncia di fatto il suo sì al referendum. Era un po' una decisione attesa questa del Partito Democratico, tra mille contorsioni, mille polemiche, però sentiamo Zingaretti, va. Io ho proposto un sì per cambiare, finalmente per fare le riforme. Tutta la vita ho lottato contro l'antipolitica e lotterò tutta la vita contro l'antipolitica, ma per farlo è giusto cambiare. Scuse non richieste, per tradurre dal latino. Paolo, mi è vero, tanto più che Repubblica gli ha rubato una frase che mi ha allarmato: hanno provato a farmi fuori ma non ci sono riusciti. Penso un po', qualcuno ha provato a far fuori Zingaretti, quindi c'è stato un intentona, come si dice in America Latina, un tentativo di golpe, ma non ci sono riusciti. Ma qual è il tema? È che il PD sente che la terra gli frana sotto i piedi, perché è chiaro che rischia molto di più alle elezioni di quanto rischino i 5 Stelle. In fondo i 5 Stelle rischiano poco, rischia il governo, rischia il PD, e il PD rischia in quelle due regioni guidate da esponenti della sinistra, Toscana e Puglia, che sono lì in bilico. Ma a questo punto, viste le proiezioni pubblicate tra l'altro dal Sole di Roberto Dalimonte, rischia anche sul referendum, perché al di là delle cifre che venivano date per il no, ricordiamo che gran parte del PD, sì, cioè una buona parte del PD si è schierata per il no, tra l'altro Romano Prodi, oggi sul Foglio si schiera per il no anche Emanuele Macaluso. Dalimonte, dicevo, raccontava che rischia la percentuale di no, il no è dato ancora per perdente, ma rischia di essere altissima, addirittura il 40%, in alcune regioni, la regione di sinistra per antonomasia, la Toscana, rischia di essere sopra il 50%. E quindi il PD si vede perso in questa situazione. Se perde quelle due regioni se vince il no al referendum salta veramente tutto e si precipita. Ma non vince il no al referendum, però sale a dismisura, perché anche oggi c'è un appello sul giornale che fa capire che chi vuole abbattere Conte deve votare no. Ma comunque, dicevo, oggi in extremis cosa hanno fatto? Portano Conte alla festa dell'unità, tra l'altro intervistato da Maria Latella, che lo incalzerà da par suo, e Conte dovrebbe aprire uno spiraglio, non di più, perché l'uomo è furbo, al sì al MES, cioè al sì a questi finanziamenti europei per la sanità. Sì. Uno spiraglio, perché escluso, sono troppo furbi per dire sì al MES, alla vigilia prima delle elezioni. Prima delle regionali, certamente. Fammi solo riassumere brevemente, Paolo, quello che abbiamo detto in rassegna stampa. Oggi sui giornali troviamo indicazioni abbastanza chiare che ci dicono questo, che e sono arrivate anche da voci istituzionali, che ci dicono questo. Ci dicono che appunto questi soldi europei, la possibilità di ottenere l'anticipo del 10% di questi fondi europei già in questa sessione di bilancio, qua già per il 2020, è molto difficile, anzi quasi impossibile. Quindi cosa succede? Slitta tutto a gennaio e dunque le esigenze di cassa e la necessità di richiedere il MES si fa più forte, ed è per questo motivo che Zingaretti ieri è intervenuto in questo modo, no? E certo, perché slitta tutto? Perché prima, ti ricordi ancora ieri mattina, sulla scia dell'editoriale del direttore del Sole 24 Ore di sabato, dicevamo il 15 ottobre è tardi per annunciare le riforme sulla base della quale, delle quali noi chiediamo questi soldi all'Europea, i famosi 209 miliardi. Ma altro che 15 ottobre tardi, qua si dice che si comincerà a trattare dal primo gennaio e quindi si andrà, c'è una finestra aperta fino ad aprile, e poi quando si arriva alla fine di questa lunga trattativa, come anticipo l'Europa ci dà il 10% di questi fondi, cioè 21 miliardi, ma bisogna arrivare ad aprile, maggio, sì. Fino ad allora non vedremo un euro, non vedremo un euro. Per questo chiedere il MES, che invece verrebbe dato subito, anche se è il totem nemico dei 5 Stelle e della Lega, questo fondo salva stati, è fondamentale. E siccome il PD sì. lo chiede a gran voce da tempo, se Conte vuol dare una mano a Zingaretti, oggi dovrebbe quantomeno aprire. Che Maria Latella lo incalzi. E ti faccio notare una cosa, che sì. Per la prima volta nella storia il sindacato Landini non si è pronunciato, ha detto beh, insomma votate come vi pare, per la prima volta su un referendum, referendum. Sì. Ed è un no nascosto, camuffato, perché siccome il sindacato avrebbe sì. ha sempre tenuto la stessa posizione del PD o della sinistra, di come sì. diavolo si chiamavano i partiti della sinistra, dire fate un po' voi è una cosa non così, insomma, non usuale da parte del sindacato. Usuale. Quindi per questo ti ho detto, la situazione, guarda, è davvero incandescente, e se non ci sono sorprese oggi per il PD è una situazione molto molto difficile. Tra sì. l'altro qualche giornale segnala che Franceschini non va a questa, ci va a Conte, ma non ci va a Franceschini a questa festa dell'unità. Sembra che lì ci sia un terremoto in agguato. Sì. Vedremo come andranno le cose. E brevemente, Paolo, c'è sul Corriere della Sera oggi questa ricostruzione del famoso rapporto datato 22 febbraio del Comitato Tecnico Scientifico, quello secretato, quello al centro di grandi polemiche soprattutto da parte della Lega. Tra poco avremo ospite il segretario Matteo Salvini. Breve riassunto. Il ministro Speranza, a fronte delle accuse che sono arrivate, ha detto: il rapporto del Comitato Tecnico Scientifico ci è stato presentato da Alberto Zoli, che è il direttore delle emergenze, generale, il capo sì. del 118 della Lombardia, e quindi la Lombardia in realtà tutto questo lo sapeva. Oggi il Corriere riporta quella che non è un'intervista, ma una di quelle cose del tipo che troviamo ogni tanto sui giornali: dice ai suoi, riferisce ai suoi collaboratori Alberto Zoli, ma che in realtà probabilmente riferisce ai suoi collaboratori. Vuol dire questo, che il giornalista ci ha parlato, lui ha detto non ti autorizzo a riportarle fra virgolette, allora si mette quella forma, sì. Ma il suo collaboratore in questo caso è il giornalista. Sì. E Zoli, proseguo io perché hai fatto un racconto impeccabile, Zoli dice ma che c'entro io? Io rappresentavo non soltanto la Lombardia ma tutte le regioni, io sono il direttore generale dell'azienda locale per l'emergenza e firmo ogni mattina un vincolo che mi impone la riservatezza, non dovevo essere io ad avvertire Fontana Insomma, anche qui si rivolta, vi ricordate che tutto partì con le accuse a Fontana che non aveva fatto abbastanza, che aveva capito tutto, sì. e si sta un po' rivoltando contro il governo che conosceva questo rapporto del, insomma, del centro che doveva studiare l'emergenza, sì, che il centro doveva studiare l'emergenza e che lo ha ignorato, e anche questo modo di Speranza di chiamare in causa Zolli, temo che possa, tra l'altro lo ha fatto alla festa del fatto, temo che possa ritorcersi contro. Comunque vedrai che Salvini, il quale ha già scritto una lettera al Corriere, ti ricordi, due giorni fa, certo. Su questi argomenti, vedrai che cavalcherà. Picchierà duro. A chiudere, Paolo, abbiamo, ce la vogliamo prendere un momento più leggero, coi due grandi evasi che però sono un umano e un orso. Me l'hai visti? Allora, per l'orso... M49. L'umano sarà Johnny Lo Zingaro, sì, e l'orso sì. È M49, l'orso in Val di Fiemme che lo hanno riacciuffato, ma tutti tifano per questo orso che hanno soprannominato Papillon, che pur di stare in libertà pensa che in un mese era dimagrito di 40 kg, da 220 kg pesava a 180-182 sì. E quindi rinunciava a mangiare, e per questo dimagrendo 40 kg il collare che gli avevano messo è scappato, se l'è perso, è riuscito ad andare in giro, alla fine con una trappola sempre cibaria l'hanno riacciuffato, ma si capisce dal tono dei giornali che tutti tifano per M49, ma forse l'evaso per anche per Johnny Lo Zingaro. Adesso dico una frase che mi costerà cara, ma anche per Johnny Lo Zingaro si capisce che si fa il tifo, non l'hanno ancora preso in Sardegna, i giornali... Giuseppe Mastini, al secolo Giuseppe Mastini, fuggito 4 volte da carceri e riformatori e per altre 3 non è tornato in cella dopo un permesso, l'ultima nei giorni scorsi, forse per raggiungere una donna. È un po', hai ragione, un po' i giornali sembrano fare il tifo, qualcuno sembra fare il tifo per Johnny Lo Zingaro. Il primo delitto a 14 anni per una vita di furti e omicidi, leggo sul Messaggero. Tra l'altro ti segnalo una cosa, che qualche giornale se la prende anche col tribunale che lo ha messo in libertà provvisoria, dice ma come libertà provvisoria dopo 4 evasioni, e segnala che è lo stesso tribunale che liberò il boss Zagaria. Ah, ecco. Vedi, tutto si tiene. Allora, mi raccomando, con Salvini incalzalo bene, perché questa è una bella storia. Ci si prova. Grazie Paolo Mieli, ci sentiamo grazie domani 8:10, 8:15 come sempre dopo il GR delle 8. Ciao Paolo, una pausa, poi Salvini e poi il ministro dell'università Manfredi. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Le 8:34 minuti, care ascoltatrici, cari ascoltatori, se volete ci potete raggiungere, come sempre siamo anche in diretta su Facebook. Matteo Salvini, leader della Lega, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito, e spero che la linea tra Firenze e la Garfagnana non faccia schifo. Lo speriamo anche noi. Ascolti Salvini, il Corriere della Sera l'avrà visto, oggi apre con questo piano, il piano del Comitato Tecnico Scientifico, rimasto segreto, sul quale si sono appuntate molte delle sue, chiamiamole osservazioni, chiamiamole critiche in questi giorni. Che cosa ci legge in più in quello che pubblica oggi il Corriere? Ma innanzitutto ringrazio i giornali che stanno facendo un servizio pubblico di informazione, dal Corriere alla Repubblica. Noi chiediamo semplicemente trasparenza, chiarezza, che non ci siano segreti di Stato su settimane drammatiche. Vogliamo capire, senza voler fare i processi a nessuno, se i medici chiedevano la chiusura delle zone rosse in Lombardia e il governo non l'ha fatta e perché, se i medici avevano lanciato l'allarme a febbraio, il governo ha mandato 18 tonnellate di mascherine, materiale sanitario in Cina, e perché, ci chiedevano di non chiudere. Sì, è vero, Salvini, mi scusi, è vero che l'invio al materiale della Cina è precedente al documento del Comitato Tecnico Scientifico, eh? A noi interessano i tempi, i modi e le spiegazioni. Quindi non, io non do pregiudizi. Vorrei solo che il Ministro della Salute, invece di insultare me dandomi del piccolo uomo queste risposte, che Conte invece di insultare me queste risposte, ripeto, sono risposte che meritano gli italiani, meritano i medici, meritano gli infermieri, meritano i parenti dei morti e dei contagiati. Quindi se è stato fatto tutto secondo i crismi, nulla questio. Se invece, e qualcuno dovrà dare delle spiegazioni, si è agito in ritardo e si è agito male, la spiegazione non va data a Salvini, va data agli italiani. Ritiene opportuno che sia stato tenuto segreto almeno all'inizio questo documento del Comitato Tecnico Scientifico, con appunto la spiegazione che avrebbe potuto creare del panico? Cioè, lei lo avrebbe fatto se fosse stato al governo? L'avrebbe tenuto segreto? All'inizio ci poteva stare, a febbraio, a marzo ci ricordiamo le sirene delle ambulanze e le rianimazioni che non riuscivano a ospitare più pazienti e la costruzione in fretta e furia in Lombardia di 3 ospedali da campo. Però adesso siamo a settembre e quindi è giusto capire se il governo, che poteva avere gli elementi, io no, io ero all'opposizione, se il governo aveva gli elementi per agire prima, per salvare vite, non l'ha fatto per litigi, per confusioni, per scelta politica. Bergamaschi, Basi, ma gli italiani tutti dovrebbero saperlo. Senza spirito polemico, siamo a settembre, a me interessa di più oggi la ripresa delle attività economiche, la ripresa della scuola e la ripresa di una vita la più normale possibile. Però siccome per mesi ad esempio il governo ha riempito di attacchi la regione Lombardia, gli ospedali, il governatore, i sindaci, i medici, ecco, rimettere le cosine a posto mi sembra rispettoso. Lei sa qual è l'altra tesi? Dicono in realtà era la Lombardia che non voleva chiudere, avrebbero potuto fare come ha fatto l'Emilia Romagna, no, in alcune zone, governo, in alcune zone l'Emilia Romagna per esempio l'ha fatto. Non scherziamo, la competenza del governo, le zone rosse sono di competenza del governo, la salute pubblica è di competenza del governo, l'esercito, la polizia e i carabinieri dipendono dallo Stato. Non sì. Puoi fare le zone rosse con gli ausiliari del traffico, evidentemente. Però alcune zone sono state fatte, lei lo sa, in Emilia Romagna, in Campania. Si era arrabbiato. E voi vi ricorderete che il governo. Però l'hanno fatto lo stesso. Però, amico mio, o il governo fa le cose e le fa lui, o se le fanno le regioni non rompe le scatole. Non puoi dire alla Lombardia non fare tu le cose e non le fa neanche il governo. Le due cose non vanno insieme. Sì, forse quello che dico è che forse la Lombardia avrebbe potuto muoversi autonomamente e chiedere e a quel punto ottenere dal governo, come ha fatto l'Emilia Romagna, come ha fatto la Campania, no? Io capisco il suo ragionamento, che per me non sta in piedi. Perché se il governo dice ci penso io da cittadino in buona fede, che non ho gli elementi per decidere, io da governatore, che non ho gli elementi, che sono secretati, da medico di Bergamo, che non ho gli elementi perché sono segreti, mi fido del mio governo. Se il mio governo dice tutto sotto controllo, io penso che sia tutto sotto controllo. Ascolti, Salvini, la vorrei portare su un altro tema di queste ore. Sulla scuola ci arriviamo tra un attimo, però prima il tema del recovery fund, ossia dei fondi in arrivo dall'Unione Europea. Su tutto il procedimento, su tutta la questione, su questi stessi fondi voi siete stati, mi pare, piuttosto critici. Però fatto sta che ci sono e arriveranno questi 209 miliardi. Abbiamo appreso che probabilmente arriveranno dall'anno prossimo. Altro capitolo è quello del MES, la vostra posizione ormai la conosciamo a memoria, e però mi è caduta la linea. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo, Salvini, tra Firenze e la Garfagnana, come ci ha detto, del MES e del Recovery Fund. Abbiamo parlato lungamente poco fa con Paolo Mieli. Quello che volevo capire da Salvini, è seguendo un po' l'invito che si trova su qualche giornale oggi, è come li spenderebbe questi soldi, perché adesso stanno iniziando a piovere i progetti da parte dei ministeri, però bisognerebbe provare a recuperarlo e vedere un attimo se riusciamo a recuperare la linea con Matteo Salvini. Proviamo, che mi dice Alessandro Marco Tulli. che non ce l'abbiamo, è in viaggio tra Firenze e la Carfagnana. Poi quando gli ospiti, i politici, eccetera, che accettano gli inviti, impareranno a stare fermi, a non girare in macchina come dei pazzi, nel momento, in quei 10 minuti, quarto d'ora nel quale sono al telefono con noi, sarà troppo tardi. Salvini, si fermi con questa macchina, c'è, pronto, ce l'abbiamo. Mi sono fermato, ecco, scusate. Oh, ecco, finalmente. Non fermo in autostrada. Senta, come li spenderebbe questi soldi del recovery fund la Lega? Cioè, se lei fosse al governo, quali sarebbero le vostre proposte, quelle principali almeno? Ma c'è una riforma che costa zero e non ha bisogno neanche dei soldi dell'Europa, che è il taglio della burocrazia, l'azzeramento del codice degli appalti, lo sblocco di tutti i cantieri sul modello Genova. Questa è una proposta che la Lega fa in Parlamento da prima del virus, a maggior ragione nel dopo virus. Immaginatevi il modello Genova applicato a tutti i cantieri fermi, alla bretella della Valtrompia. C'è la Gronda di Genova, che è un'autostrada di 60 km già progettata e finanziata, ferma, i tantissimi cantieri ferroviari, ricorsi, controricorsi. Modello Genova, scelto dalla Lega, pieni poteri al sindaco, commissario straordinario, un anno e mezzo, ponte nuovo. Nessuna tangente, nessun ritardo, nessun incidente sul lavoro. Quindi questo non ha bisogno né dell'Europa né dei soldi. Lei dice, lei decine di miliardi di euro di opere pubbliche, sono migliaia di posti di lavoro. Senta, e invece sul recovery fund, visto che questi soldi ci sono, tutto sommato converrebbe utilizzarli, che dice lei? Oppure no, voi ritenete di no? Continuo a ritenere che se ci sono dei soldi che non hanno dei vincoli, che poi sono una fregatura, si usano. Se per darmi un prestito io devo tornare alla legge Fornero, per intenderci, e allora quel prestito non lo prendo. Lei renderebbe strutturale quota 100, Salvini? No, l'obiettivo è quota 41. Non solo, quota 100 era un primo passo, perché il ricambio generazionale, il favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, sia del pubblico che del privato, di migliaia di giovani, con più competenza, più energia, più entusiasmo, più spirito costruttivo rispetto a chi ha la schiena rotta e lavora da 40 anni in una casa di riposo, in un ospedale, in un negozio o in agricoltura, mi sembra innanzitutto un'operazione di giustizia sociale, perché la pensione dopo 41 anni di fonderia non è un privilegio, ma è un sacrosanto diritto. E poi anche economicamente conviene al paese Italia, perché immette energie giovani, io penso... Lei sa, Salvini, mi scusi, lei sa che qualsiasi studio empirico, anche di economisti, dimostra che questa questione del ricambio generazionale non esiste. In realtà nei paesi nei quali si va in pensione più tardi sono anche i paesi con la più alta partecipazione di giovani all'occupazione. Quindi... In Italia, nel pubblico impiego il ricambio è 1-1. Quindi per un poliziotto, per un vigile del fuoco, per un insegnante che non ce la fa più, che va in pensione, entra un giovane fresco, nuovo, motivato, che sicuramente produce di più e allo Stato costa anche... Quindi meno. Solo per il settore statale, in sostanza? No, nel privato. Lei faccia il camionista per 42, per 43 anni e poi ne riparliamo. Io penso che sia un'opera di giustizia sociale e di innovazione economica e anagrafica per il Paese. Soprattutto dopo il virus, con centinaia di migliaia di licenziamenti, ahimè, in vista, tornare alla gabbia della legge Fornero, che ferma fino a 66-67 anni lavoratrici e lavoratori sul posto di lavoro, che peraltro non c'è più, perché se lo perdi il lavoro non puoi aspettare 2, 3, 4, 5 anni per andare in pensione con la legge Fornero, cosa campi di aria nel frattempo? Salvini, ha parlato lei di un 7-0 alle regionali, ma davvero ci crede? Anche la Campania? No, ma io, il voto dei cittadini fortunatamente è libero, è democratico ed è sempre una sorpresa. Io girando l'Italia sto sentendo tanta voglia di concretezza, di cambiamento. Accennavo all'inizio del tema scuola. Oggi leggiamo sui giornali, mancano i bidelli, mancano gli insegnanti, mancano le aule. Mancano banchi, io ringrazio il quotidiano La Verità, sì. Invito chi ci ascolta a fermarsi a comprarlo in edicola, non me ne viene in tasca una lira, perché racconta una storia triste all'italiana di questa società, e voi siete Radio 24, sì. La radio delle imprese e della produzione, mi pare normale che il governo tramite il commissario abbia affidato un appalto da 44 milioni di euro per la fornitura di 180.000 banchi con le rotelle a una società con un dipendente, con un capitale sociale di 4.000 euro, con un fatturato di 400.000 euro, con una sede in un palazzo di Ostia. Se ne abbiamo dato conto, ne abbiamo dato conto in rassegna stampa di questa storia, Salvini. Sì. Chiedo al ministro della scuola certezze. E oggi famiglie, insegnanti, presidi e studenti non hanno certezze. Siamo l'unico paese europeo che ancora sulla scuola non ha insegnanti, non ha bidelli, non ha aule, non ha banchi. E non sarà mica colpa mia. Senta, teme che in Toscana finisca come in Emilia Romagna. Vinciamo e poi... Vinciamo. Io oggi sono prima in Garfagnana, poi a Lucca, poi a Pistoia, poi a Firenze. I toscani sono persone molto concrete. Il candidato del PD in Toscana prometteva un nuovo aeroporto a Firenze nel 1989. C'era il muro di Berlino. La nostra candidata aveva 2 anni e andava all'asilo nido. Nel programma del PD in Toscana nel 2020 c'è il nuovo aeroporto di Firenze. Ora capite bene che non è un voto ideologico quello delle regionali, non è il voto europeo, il voto politico nazionale. È un voto per la sanità, per le strade, per la raccolta dei rifiuti. I toscani sono fra gli italiani che pagano più di tutti per lo smaltimento dei rifiuti. Ma non è che produrre l'immondizia a Firenze costi di più e non a Milano, a Treviso, a Bologna. Quindi io penso che sarà un voto molto concreto di rinnovamento. Non politico, dice lei. Non avrà un impatto sul governo, dice lei, questo voto. Dal mio punto di vista no, sarà un voto dei fiorentini per i fiorentini e dei baresi per i baresi. Ultima cosa, Salvini, tanto poi avremo te, ci sarà possibilità. Gli stadi lei li riaprirebbe? Con cautela sì. Nel prossimo fine settimana a Misano, per scelta della regione a guida PD, quindi faccio un esempio che non è leghista, sovranista, c'è il Gran Premio di motociclismo e con cautela, con distanza, con prudenza, per ogni giornata del Gran Premio fanno entrare 10.000 spettatori. Evidentemente è diversa una corsa, una partita di pallavolo, una partita di tennis, con la presenza. Quindi io penso che in stadi che tengono 70-80.000 persone, se ne fa entrare 5-10.000 con cadenza oraria, che stanno uno a 10 metri dall'altro, hai aperto il cinema, hai aperto i teatri. Apriamo, dice lei, un po' anche gli stadi. Anche perché è lavoro, non è solo tifo, ci sono migliaia e migliaia di posti di lavoro da 1.000 euro al mese che dipendono da questo. Grazie Matteo Salvini, leader della Lega, buona giornata. Buona giornata. Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, eccoci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e radioascoltatore. Allora, abbiamo parlato lungamente di scuola e poco in questi giorni di università. Università che però anch'essa si prepara a riaprire e spera di riaprire in presenza, perché anche la socialità, no, degli studenti, anche il tipo di insegnamento è diverso oggettivamente in presenza. Lo schema che avete individuato, Manfredi, è metà e metà, mi sembra di aver capito. Metà in presenza, metà a distanza. Sì, noi abbiamo che alcuni atenei hanno già aperto, quindi con penso alla Bocconi, alla Cattolica, altri aprono lunedì, diciamo cominciano le lezioni del primo anno, la maggior parte, con un sistema misto, nel senso che avremo che una parte degli studenti seguiranno prevalentemente o completamente in presenza, essenzialmente le matricole, perché abbiamo privilegiato un po' i più giovani che vengono dalle scuole superiori e quindi hanno più necessità di essere un po' inquadrati rispetto a un percorso universitario, anche le modalità di studio universitario. Gli altri ragazzi invece ruoteranno, e lasciando anche una libertà agli studenti di poter scegliere, con un meccanismo organizzato con delle app di prenotazione, in maniera tale da poter scegliere le modalità che preferiscono, perché sarà garantita sia formazione in presenza sia la stessa formazione a distanza, in maniera tale da avere la massima flessibilità possibile per garantire la continuità didattica. Sì. Lei, avete già qualche segnale che vi sta arrivando dal lato delle iscrizioni, Ministro? Che cosa sta succedendo? Ci sono dei cambiamenti nelle immatricolazioni e nelle iscrizioni alle università? Guardi, noi eravamo estremamente preoccupati che, come era avvenuto dopo la crisi del 2008 e del 2012, ci fosse una significativa riduzione delle iscrizioni. Devo dire, e questo lo dico con soddisfazione, che i segnali che noi abbiamo in tutta Italia sono segnali invece di una forte scelta da parte dei giovani dell'università. Questo è un segnale molto importante perché significa da un lato che c'è un investimento sul futuro, iscriversi all'università significa avere fiducia sia da parte dei giovani ma anche da parte delle famiglie, e poi anche perché le politiche che abbiamo messo in campo come governo di forte sostegno al diritto allo studio, riduzione delle tasse, aumento delle borse di studio, evidentemente sono state efficaci e stanno dando delle risposte molto importanti. Quello che si nota è che questo riguarda con riferimento alle matricole, perché in genere chi è già iscritto all'università sta al secondo o terzo anno, è difficile che si sposti perché significa cambiare docenti, cambiare luoghi, insomma è molto complicato. Sulle matricole invece notiamo che c'è una distribuzione un po' diversa, perché alcune giovani che prima cambiavano regione per poter studiare adesso tendono a stare più nella regione di appartenenza, probabilmente per il timore dello spostamento, per la preoccupazione delle famiglie. Questo riguarda soprattutto per i diciottenni gli immatricolati, però non sono fenomeni estremamente rilevanti, perché le immatricolazioni tengono in tutte le regioni d'Italia. Tengono in tutte le regioni d'Italia, però diceva c'è un po' una tendenza a rimanere nella propria regione, e immagino che questo fenomeno riguardi in particolare il Mezzogiorno, perché in genere lo spostamento è da sud, è da sud verso nord, e dalle piccole città verso le grandi, quindi si rimane un po' più in provincia e un po' più nel Mezzogiorno, se ho capito bene. Avete delle cifre su questo, già, Ministro? Non abbiamo ancora dei numeri concretizzati, perché lei deve considerare che le immatricolazioni cominciano ad agosto e in alcune università il primo settembre, quindi noi avremo dei numeri abbastanza definiti tra la metà e la fine di ottobre. Però abbiamo che, per esempio, in alcune università del Mezzogiorno abbiamo un aumento delle immatricolazioni che supera tra il 5 e il 10%, quindi segno che ci sta una scelta significativa di giovani che restano nella propria regione, penso alla Sicilia, alla Puglia. Questo spinge anche ad una riflessione sul cambiamento delle città, Ministro. La riguarda in quanto Ministro dell'Università e della Ricerca, però ha a che fare più con come cambiano le città. Abbiamo visto dei dati nei giorni scorsi che indicavano un aumento della disponibilità di stanze in affitto in città, per esempio come Milano, nell'ordine del 300%. Cioè, cambia proprio questo anche per la didattica a distanza, ovviamente. Sì, questo anche per la didattica a distanza, perché lei deve considerare che il tema non è solo il tema dell'iscrizione. È chiaro che questo sistema più flessibile che consente ai ragazzi di scegliere, perché la politica che ho messo in campo è stata quella di cercare di tutelare al massimo la scelta degli studenti in un momento così complesso anche dal punto di vista psicologico, perché noi dobbiamo guardare anche a questo. Ha portato anche a dei ragazzi che erano dei fuorisede di lunga percorrenza di preferire una didattica a distanza nel primo semestre, perché questo avrebbe garantiva più sicurezza, più tranquillità dal punto di vista psicologico, e dobbiamo pensare a questo. Ma è indubbio che questa pandemia cambia radicalmente l'approccio alla gestione di alcuni servizi, al lavoro, e quindi quella densificazione nelle città che noi abbiamo vissuto negli ultimi anni, gli ultimi 10-15 anni sono stati da anni di fortissima concentrazione nelle grandi città di tutti i servizi e delle persone. Credo che questo stia cambiando, perché ci sta più distribuzione, la digitalizzazione significa anche distribuire sul territorio i servizi e la fruizione dei servizi, però questo deve essere visto anche come un'opportunità, perché io credo che alla fine una società più equilibrata anche dal punto di vista territoriale è una società dove c'è più qualità della vita, e noi lo sappiamo anche in Italia. L'Italia è paese anche delle province, quindi abbiamo sofferto della desertificazione soprattutto delle aree interne, quindi io credo che questa deve essere anche colta come un'opportunità, una possibilità, un'opportunità. Abbiamo Nelle prossime ore ci sarà la riunione del comitato presieduto dal ministro Enzo Amendola, che vaglierà i progetti arrivati sul tavolo dai vari ministeri per il recovery fund. Abbiamo visto che solo quelli del ministro Patuanelli cubano 159 miliardi. Lei li ha presentati come ministro dell'università e della ricerca, che dimensione hanno? Sì, diciamo, io ho presentato un progetto molto organico di investimento sia sull'università, sul diritto allo studio, sul cambiamento delle competenze sia digitali che green, sulla ricerca, che noi abbiamo bisogno di investimenti importanti sulla ricerca. Abbiamo visto quello che, insomma, quanto significa avere una ricerca di qualità anche per la protezione, la sicurezza delle persone, la ricerca medica. Sì. Noi abbiamo, insomma, l'investimento complessivo per questo piano è di 15 miliardi, che, diciamo, significa cercare di portare l'Italia a quelli che sono gli standard europei. Quindi è rimasto basso lei? No, io mi auguro che la richiesta che ho fatto, ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, noi dobbiamo investire in educazione, in formazione, dobbiamo investire in ricerca, e noi abbiamo la necessità di dare segnali importanti, perché solo così possiamo ripartire. Se noi non investiamo sui giovani, del resto questo è un fondo per i giovani, e quindi io credo di aver dato dei numeri concreti, quindi questo è quello che noi cercheremo di fare. Sono fiducioso che faremo un investimento importante. Due cose rapide e politiche: si candida a sindaco di Napoli? No, ma io non mi sono mai candidato, io lavoro per l'università, per la ricerca, per i giovani, e mi auguro di poterlo continuare a fare mettendo a servizio del paese le mie competenze. L'ultima, sempre politica: il leader della Lega Matteo Salvini, che abbiamo appena avuto ospite, non gliel'abbiamo chiesto, però su dichiarazione delle scorse ore l'ha definita un ectoplasma, un fantasma, dicendo che è sparito, lei come Lucia Azzolina? Guardi, io questo è un po', adesso siamo in un periodo di campagne di propaganda elettorale, il tempo, insomma, un po' delle grandi parole, insomma, noi abbiamo lavorato tantissimo, i risultati si vedono. Credo che il senatore Salvini non sia ben informato di quello che succede nelle università italiane, nel mondo della ricerca italiana, quindi sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, e credo che i risultati concreti si vedono. È il momento dei fatti, noi dobbiamo fare meno parole e più fatti. Grazie Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca. Alla prossima, se avrà voglia, naturalmente. Con grande piacere, un saluto a tutti i radioascoltatori. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, la nostra redazione, Margherita Ene e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. A domani alle 6.30, ciao. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it